Voci in scena di Marta Cagnola. Buongiorno da Marta Cagnola e bentornati insieme per un nuovo ciclo di appuntamenti con le nostre voci in scena, gli incontri con i grandi protagonisti della musica, del cinema, della cultura. È da anni una delle voci più conosciute e amate della musica d'autore italiana. Anni da indipendente nelle realtà più all'avanguardia della Milano dei primi anni Ottanta, anni in cui fa parte di gruppi passati alla storia del rock italiano come i Carnival of Fools. Nel 1993 fonda i La Cruz, gruppo che si scioglie nel 2007 per poi riunirsi per una sola occasione, per il Festival di Sanremo di quest'anno, con il brano Io Confesso, incluso nell'album Ho Sognato Troppo L'Altra Notte. Quest'estate per lui, dopo il festival Parola Cantata, da lui curato e diretto, un tour. Stiamo parlando di Mauro Ermanno Giovanardi. Ma cosa pensa quando riflette su quest'ultimo importantissimo periodo? Penso a una fatica immane. Però essendo stacanovista, questa cosa mi stimola. No, è stata una fatica perché comunque avevo il mio disco pronto da mesi, nel cassetto, dove tutti mi dicevano che era un disco bellissimo, che ero un pazzo a non farlo uscire, ma non ero io che non lo volevo far uscire, ma la mia discografica. Poi c'è stata tutta questa cosa di Sanremo, dove ci ho pensato tanto, perché in realtà proprio per una richiesta fattami espressamente da Morandi e da Mazzi, mi hanno chiesto di andare a Sanremo per l'ultima volta come La Cruz, che era un progetto che in qualche modo aveva già chiuso. Per cui ci ho pensato davvero più di un mese, con Morandi che mi chiamava una volta alla settimana, dice ma io ti voglio assolutamente al festival, devi assolutamente venire. Per cui a lui piaceva fondamentalmente l'idea di chiudere il cerchio su quel palco. Allora ricordiamo La Cruz con il codice 04 di Giovanardi Curallo, Io Confesso, dirige l'orchestra Fabio Gurian. Ah, mi hai fatto lo scherzetto. Canta La Cruz. A noi era capitato proprio come nei film, che nel 94, sempre al Teatro Ariston, eravamo stati invitati dal Premio Tenco come gruppo scoperto da loro, senza un disco fuori. Io raccontavo spesso questa cosa nelle interviste. E a noi è capitato come nei film, dove vai su un palco, fai tre canzoni, scendi dal palco, dopo mezz'ora hai un contratto con una major, con un management che poi è stato il più importante degli anni 90, che era la Mescal. Insomma, per cui a lui piaceva il fatto di chiudere, no? Su quel palco dove la storia della Cruz era iniziata. Per cui, cosa che per me era bella da un punto di vista anche romantico, ma mi sembrava, da un punto di vista della chiarezza, della comunicazione, un po' strana. Anche un po' rischiosa. Un po' rischiosa, per cui ci ho pensato un casino, poi insomma alla fine Morandi mi ha convinto. In realtà ha fatto bene perché è stata un'esperienza bellissima, però nei due mesi successivi non ho fatto altro che fare delle interviste per cercare di azzerare la dicotomia tra La Cruz, no? È il mio nome, perché questo, il pezzo di Sanremo è un mio pezzo uscito sul mio disco. Questi 365 giorni sono stati davvero faticosi, ma sono molto contento di essere qui a raccontarli, perché nonostante appunto tutta una serie di fatiche, mi sento un po' Ercole. Non la cerco, dovunque la trovo è parola di vento e bagliore. A proposito del tour, è una cosa ambiziosa. Ma le sfide importanti poi quando vinci sono le più belle. Ma fin dall'inizio avrei voluto girare in questo modo, perché tutto il disco rispecchia questo tipo di clima, questo tipo di atmosfera, questo tipo di suggestioni, per cui almeno di un Ottetto d'Archi era importante ci fosse, era importante ci fossero i fiati, erano importanti ci fossero i musicisti che in qualche modo hanno lavorato al disco, o hanno collaborato. Era importante portare dal vivo il disco più o meno così com'è. Accendilo tu, questo sole che è spento. L'amore lo sai, sciogliere i cuori di ghiaccio che sarà di me. 1964-1969 sono questi gli anni che tu hai detto sono particolarmente importanti da tanti punti di vista, e per te in questo periodo perché? No, perché io mi riferivo da un punto di vista proprio musicale, c'è stata una rivoluzione, cioè il rock vero e proprio è nato in quegli anni, era una sorta di terra promessa, era una sorta di terra inesplorata, per cui in quegli anni sono venute fuori le cose anche più bizzarre, perché a differenza di adesso, diciamo che i discografici mettevano sotto contratto i gruppi, gli artisti più particolari, più geniali, meno standardizzati, per cui c'era davvero, siccome non era stato fatto nulla ancora prima, c'era davvero la libertà artistica e mentale di poter sperimentare qualsiasi cosa, per cui sono stati anni importantissimi e sono un periodo in cui musicalmente sono molto legato. Anche se per anni con i La Cruz ho lavorato sulla modernità, sull'uso dell'elettronica, delle macchine, però il mio cuore musicale per certi versi è sempre, insomma, ha una fascinazione particolare per quel periodo, per cui mi piaceva l'idea di fare un mio percorso personale, attraversare questo periodo appunto con la mia sensibilità, con il mio modo di vedere la musica, cercando di scansare davvero il manierismo e il citazionismo, che era una cosa che non mi interessava, ma appunto attraversare questo periodo musicale essendo consci che siamo nel 2011, per cui appunto che si doveva sentire questo tipo di suggestione, di respiro, di musica, ma anche doveva essere contemporaneo. Ma chiamerai il mio nome, lo so che lo farai, non c'è nessuno. Però Morandi non smetteva di cantare la canzone, vorrà dire qualcosa, perché la sentiva un po' nelle te la voleva rubare. No, ma infatti mi ha fatto molto piacere questa cosa, che l'ha cantata da tutte le parti. E per cui, no, ma davvero, lui mi è stato alle calcagne un sacco. Io all'inizio non ci volevo andare in questa formula, perché mi sembrava un po' troppo strana, un po' troppo pericolosa. Ha avuto ragione lui, infatti lo devo ringraziare anche per questo, che in ogni occasione che lui ha potuto, la domenica mattina è finito il festival, io non c'ero, ma i giornalisti che c'erano in conferenza stampa mi hanno detto: adesso che non posso più influenzare nessuno, lo posso dire, la mia canzone preferita era Io Confesso, ho iniziato a cantarla. Confermo, è successo così. Chiamerà il mio nome, lo so che lo farai, non c'è nessun altro al mondo così vicino a te. E così vuole un'altra possibilità. Ti chiedo un'ultima cosa, il tuo festival si chiama Parola Cantata, perché è importante per te questa espressione? No, ma perché mi piaceva molto Parola Cantata, happening delle musiche d'autore, proprio anche per sfatare un po', proprio musiche, non musica, musiche d'autore, proprio per sfatare un po' anche il mito del cantautore, no? Che dell'immaginario che abbiamo del cantautore anni 70, super impegnato. Poi certe cose non sai bene perché, le sceglio perché funzionano, però quando mi è venuto fuori l'idea di Parola Cantata mi piaceva, mi sembrava che in qualche modo comprendesse in maniera molto semplice la cosa che volevo, a cui volevo arrivare, e cosa devo dire d'altro? Mi sono perso. Grazie. Cesare Malfatti. Susanna Rigacci, Mauro Ermanno Giovanardi. Grazie. E per il nostro appuntamento di oggi con Voci in Scena è tutto. Da Marta Cagnola ancora l'augurio di una buona giornata.